immagino di averti qua vicina. Ecco, ricevere la tua email stasera è stato veramente un piccolo avvenimento. Sono rare queste email così dense di vita che non sai se pensarle come messaggio chiuso dentro una bottiglia e lanciato nell'oceano della vita e che stranamente arriva anche a te. Dico anche a te perché è arrivato anche ad altri fratelli che con te e con me stanno facendo questo viaggio, in questa bellissima avventura dell'esistenza vissuta con in mano la chiave che Chiara ci ha donato, Gesù Bambinato. Ecco, questa musica mi piace molto perché mi raccoglie, mi consente di raccogliermi. E di fronte a queste email, dicevo, sento che l'anima si è raccolta e per questo ti ringrazio. Non che prima io fossi disperso. L'esperienza di preghiera che stiamo facendo ormai quasi da 4 anni con alcune persone, grazie proprio a internet, ecco, aiuta moltissimo. E però, tornando a te, quello che si avverte nel tuo messaggio, che forse è ben più che un semplice messaggio, è proprio un regalo che viene, che mi è venuto da Gesù, che mi ha domandato attraverso di te: ma tu Claudio chi sei? Dove sei? Riesci ancora a dire a Gesù abbandonato di sì? Quando la strada che hai davanti è visibile e anche se dura hai qualche speranza. E me lo sono sentito dire, e per cui mi è mancato un attimino il fiato, come si dice, nelle mie condizioni, non se ne ha poi tanto, e come ti ho scritto sono uscito per una bellissima breve passeggiata che mi ha portato a vedere il sole che calava all'orizzonte con un immenso cielo squadernato davanti ai miei occhi, con i colori dell'autunno che sono a me particolarmente cari. Ecco, poi tornando indietro non ho, come dire, esitato a riassaporare quei profumi che, a cui sono abituato fin da bambino. Il profumo dello strame lasciato dalle mieti trebbie che hanno abbattuto il Gran Turco, no? E, oppure il profumo del focarello acceso dal contadino per incenerire stoppie di troppo nel campo, e con l'aria fredda della sera quel profumo diventa qualcosa che è estremamente evocativo. E poi la tappa bella davanti al piccolo sacello, al capitello, alla chiesetta votiva, insomma, della mia contrada. E di fronte a questa stupenda Madonnina con in braccio il bambino Gesù, io mi sono idealmente unito a te e a tutti gli amici del gruppo del Dal Limite, il di più, e ti ho ricordata nella preghiera. E davanti alla Madonna c'era uno stupendo, gigantesco mazzo di fiori bianchi da sposa. Ecco, ti ho immaginata in questa situazione in cui ti trovi a Torino come la sposa di Gesù Abbandonato. L'età ce l'hai, la bellezza pure. Ecco, che è una bellezza che, tu capisci, va ben al di là delle cose che si vedono con gli occhi, perché è la bellezza di cui io credo possa godere soltanto Dio quando guarda creature come te. E beh, tu dici che noi dobbiamo prepararci per l'incontro con Piero. Ecco, anche questo messaggio mi ha, come dire, un po' spiazzato. Io di solito mi preparo, e penso anche tu, tutti noi, insomma, all'incontro con Dio, perché Chiara ci ha insegnato questo, no? Ecco, è vero che bisogna però prepararsi anche alle tappe che Dio predispone davanti a noi, perché probabilmente la tappa che ci vedrà insieme a Piero della scuola Abba, sono una delle persone che probabilmente hanno il dono di cogliere la sapienza, diciamo, nelle esperienze vissute all'interno del movimento e nella Chiesa. Da persone che, come te, innamorate di Dio, vogliono stare in un certo tipo di cammino, ecco, un incontro come quello con Piero, che ci sarà, io spero di poter partecipare, che tu possa partecipare, ecco, sarà un incontro, una tappa molto importante. Accetto la sfida, cercherò di dedicarmici, ecco, tu parli dell'unità vera che si respirerà tra noi. Io credo che qui hai profondamente ragione, se riesco a collegare questo tuo pensiero in avanti a quanto abbiamo potuto ascoltare ieri da Maria Grazia, che è venuta a Padova ad aggiornarci dell'incontro dei responsabili a Roma con Emmaus, e che dunque ci ha suggerito, diciamo, la preziosità e la perla costituita dall'opera. Ecco, l'opera è la perla, il nostro diamante, diciamo, no? Ce l'abbiamo insieme, dobbiamo tenerlo tra le mani perché possa brillare di luce, proprio perché è tenuto da più mani. Ecco, io ti ringrazio per questa email, perché in qualche modo stasera mi hai dato una mano a immergermi di nuovo nelle cose più importanti, in quelle che caratterizzano profondamente la vita di ciascuno di noi. Ecco, ti auguro di stare bene lì a Torino, sai che non sei mai sola, oltre a Gesù, che è sicuramente, certissimamente, sempre accanto a te, ci sono anch'io, ci siamo anche noi. Un abbraccio, ciao Chiara.